Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, buongiorno. Tornate insieme finalmente. Sì, esatto. Ieri ti ho ben sostituito, perché il tema della rinuncia al fumo è caldo, riguarda naturalmente tutti noi, perché a me il fumo passivo dà molto fastidio, per cui ho voluto proprio soprattutto cercare di essere incisiva su quel messaggio. Chi fuma avvelena di anche te, digli di smettere, la famosa pubblicità Progresso. Te la ricordi quando ancora non c'erano le leggi antifumo? Hanno telefonato davvero in tanti ieri. Il dottor Di Paco, sono arrivate tantissime richieste dei nostri ascoltatori che hanno anche commentato l'indagine, la ricerca che ha fatto il dottor Boffi all'Istituto dei Tumori, confrontando l'impatto inquinante di una locomotiva con le sigarette. Noi tra poco partiremo e parleremo di una notizia che arriva dalla Procura di Trani, che ha stabilito che non c'è correlazione tra autismo e la somministrazione del vaccino pediatrico trivalente contro morbillo, parotite e rosolia. Siamo in attesa dei nostri ospiti. Sì, intanto io posso raccontare che cosa sta succedendo in borsa, perché a quanto pare è una nuova giornata molto movimentata, così tanto per cambiare un tema nuovo per i titoli bancari. Preannuncio già che per lo spazio di domani di Investire Informati rifaremo un punto della situazione su questi. Milano perde lo 0,35%, è pronto però il nostro ospite sul tema dei vaccini, per cui direi di darti subito la linea. Allora, abbiamo il piacere di avere in linea con noi il professor Ricciardi, direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto grazie per essere con noi e per commentare a caldo questa notizia. L'abbiamo anticipato, la Procura di Trani ha stabilito che non c'è correlazione tra l'autismo e la somministrazione del trivalente contro morbillo, parotite e rosolia. L'indagine, lo ricordiamo, era partita dopo la denuncia di una coppia i cui figli sono entrambi malati di autismo, ma gli accertamenti, che si basano anche su un'indagine epidemiologica compiuta in Puglia, hanno stabilito che i casi di autismo hanno colpito anche bambini non sottoposti a vaccino. Professor Ricciardi, allora c'è stato naturalmente un team di consulenti nominati dalla Procura di Trani e che hanno confermato i dati della letteratura scientifica. Insomma, si torna a sottolineare l'evidenza scientifica. Vabbè, ma non poteva essere che così, insomma, la letteratura scientifica è uniforme nel dire che questo non esiste, lo è da anni. Ricordo che questa è una fandonia originata da una frode scientifica, da un imbroglione che è stato radiato dall'Ordine dei Medici in Gran Bretagna, che purtroppo continua a operare in America e che quindi continua a diffondere queste fandonie. D'altra parte noi non abbiamo mai dubitato e tutte le indagini scientifiche l'hanno sempre confermato. Si sono spese comunque tante energie, no? della ricerca per confutare quelle che, no, lei ha sottolineato essere fandonie. Quindi tante energie, tanti soldi, adesso anche tante risorse pubbliche, diciamo, perché ovviamente era tutto scritto in lavori scientifici fatti da centinaia di scienziati in tutto il mondo. Questo è stato un danno enorme, perché di fatto ha veramente letteralmente provocato morti, nel senso che a partire dalla Gran Bretagna molti genitori non hanno vaccinato i propri figli, hanno contribuito a diffondere soprattutto il morbillo in tutto il mondo. L'Europa è l'unico continente, diciamo, che continua a resistere a questo tipo di fenomeno e non ha consentito di eradicare il morbillo come noi auspicavamo, perché è molto migliore la situazione in America, in Asia e persino in Africa, dove ormai la copertura vaccinale è quasi totale rispetto all'Europa. Professore, ho bisogno che lei mi aiuti a chiarire un punto. Oltre all'archiviazione, fa un po' discutere, anche si legge dagli articoli, anche sui siti, la posizione della commissione di esperti, nominati naturalmente dalla Procura, che ha espresso una sorta di critica nei confronti delle linee guida dell'OMS. In pratica, come se consigliassero un'anamnesi più attenta dei bambini magari con delle caratteristiche particolari, e quindi mi riferisco ad esempio agli esami del sangue, prima di sottoporli ad una vaccinazione. Ci spiega che cosa si intende con questo? No, questa è un'assoluta incongruenza. Diciamo, io non ho ancora letto la sentenza, ho però parlato con il nostro direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, che era parte del team. Il professor Rezza, che lui non era assolutamente d'accordo e che peraltro nell'ultima versione della sentenza che lui ha visto, questo tipo di affermazione non c'era, perché è un'altra affermazione assolutamente insussistente dal punto di vista scientifico. Decine, centinaia di milioni di bambini, di persone sono stati vaccinati nel corso della storia, milioni di vite sono stati salvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità giustamente dice che bisogna fare un'anamnesi accurata, cioè bisogna sentire, vedere, constatare, sia ovviamente guardando il bambino, ma anche parlando con i genitori, ma assolutamente non bisogna fare alcun esame ematochimico. Lei si immagina che cosa significa questo in termini di costi, in termini di inappropriatezza? Cioè noi stiamo combattendo tutti gli sprechi, perché i soldi li dobbiamo mettere nelle cose che sono evidenti dal punto di scientifico e utili. Figuriamoci se noi dovessimo fare centinaia di migliaia, anzi direi milioni di esami ematochimici assolutamente inutili e peraltro dannosi, perché diciamo sostanzialmente prevedono prelievi, dobbiamo bucare i bambini, fargli le analisi, cioè è una cosa assolutamente diciamo assurda, e quindi tutto il supporto e la conferma a quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La scienza la fanno gli scienziati e la fanno le persone, diciamo, non la fanno certamente i tribunali. Professore, l'abbiamo detto che la copertura vaccinale nel nostro paese è al limite della soglia di sicurezza. Lei crede che una notizia come quella di oggi possa in qualche modo portare a un'inversione di tendenza? Se lo augura, immagino, no? Io me lo auguro. Suppongo che sicuramente, vabbè, non ne avevamo dubbi, la sentenza della mancata correlazione tra autismo e vaccini sia importante. Credo che però questo fatto degli esami generi ulteriore confusione, perché credo che tra un po', diciamo, anche con il dottor Rezza faremo uno statement ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità per chiarire che questa non è assolutamente una posizione scientificamente sostenibile, che bisogna continuare a vaccinare, ovviamente stando molto attenti alle caratteristiche del singolo bambino, informando molto bene i genitori, facendogli capire diciamo tutto, spiegandogli bene tutto, ma assolutamente questo degli esami ematochimici è veramente una cosa che però è stata ripresa da qualche giornale, per questo volevamo sapere da lei e vorrei lei mi aiutasse, perché la domanda è rivolta a lei, a rispondere ad un ascoltatore che ci scrive via WhatsApp e ci scrive: quando si va a fare la vaccinazione al bambino, il formulario da compilare chiede se i bambini sono allergici a qualcosa, ma come si fa a sapere se un bambino che ha solo 3 o 6 mesi è allergico? No, allora, diciamo che c'è una cautela medico-legale, nel senso che quando si fanno questi formulari si include tutto. È chiaro che nessuno di noi può sapere, diciamo, nel corso della sua vita se è allergico a una cosa prima che in qualche modo sia esposto a quello che in termine scientifico si chiama allergene. Però è chiaro che se il bambino nel corso della sua pur breve vita non ha manifestato, per esempio all'alimentazione, al contatto, cioè il bambino nei primi mesi di vita entra in contatto con milioni di allergeni, diciamo il contatto con i vestiti, il contatto con le mani, il contatto con gli alimenti, quello diciamo è sufficiente l'osservazione per vedere. È chiaro che poi ci possono essere dei casi estremi, ma si contano diciamo 1 su 100.000 in cui si può avere uno shock anafilattico. Diciamo, per farle capire, su 9 milioni di vaccinati nel corso degli anni nel nostro archivio, noi abbiamo registrato 5 diciamo shock anafilattici, ed è per questo che la vaccinazione viene fatta in presenza del medico, che in questi rarissimi casi è in grado di intervenire, tant'è vero che diciamo non c'è mai stato nessun morto, anche in caso di shock anafilattici importanti non c'è stato nessun morto. Mentre invece shock anafilattici importanti per la puntura di un calabrone oppure per diciamo un'allergia alimentare si sono verificati molto spesso in tarda età e a volte sono stati mortali perché vicino non c'era nessun medico. Professor Ricciardi, la ringraziamo per essere state con noi, per averci aiutato a commentare e a leggere questa notizia. Le auguriamo un buon lavoro. A presto. Grazie. Tanto a voi. Grazie. Arrivederci. Allora, eravamo rimasti nel frattempo in sospeso con la borsa, però andavano naturalmente dati questi chiarimenti alle famiglie in ascolto. Per quello che riguarda la giornata sui mercati finanziari, si è aperta male e sta andando peggiorando. Abbiamo Parigi che perde lo 0,47%, Francoforte meno 0,33%, Londra meno 0,41%, Milano perde mezzo punto percentuale. Intanto è in corso di diffusione proprio in questi istanti l'Economic Outlook semestrale dell'OCSE da Parigi, che conferma alcune indicazioni sul nostro paese, sui temi di politica monetaria, e poi parla di un'economia globale nella trappola della bassa crescita. Per quello che riguarda Piazza Affari, tanto per cambiare, abbiamo i riflettori al solito puntati sui titoli bancari. I cali più forti di stamattina: il Banco Popolare meno 4,68%, qua dobbiamo raccontare la storia di un aumento di capitale pronto a partire lunedì, che sarà fatto ancora una volta, come per tanti copioni gialletti nelle ultime settimane, a forte sconto, e dunque il mercato per penalizza. La Consob dovrebbe dare il via libera nelle prossime ore appunto all'operazione straordinaria sul capitale. Il prezzo dovrebbe essere inferiore ai 3 euro, il titolo quota adesso 4,24 euro, e quindi scende naturalmente anche per questa indicazione sull'aumento di capitale di lunedì. Il calo del Banco Popolare porta con sé anche UbiBanca, meno 4,37, Pop Emilia Romagna, meno 3, Banca Popolare di Milano, meno 2,61, Unicredit, meno 2,57, sta intanto andando avanti, secondo quanto prevede la tabella di marcia, il processo di ricambio al vertice di Unicredit. Oggi è prevista la scelta del cacciatore di teste delle Danter, che dovrà individuare il nuovo amministratore delegato. Ti suggerisce niente questa una figura? Una bella puntatina sulle Danter. Dovremmo farla, sì, c'è un evento che abbiamo seguito insieme io e Nicoletta settimana scorsa che ci ha stuzzicato in questo senso, per cui andremo un po' a caccia di cacciatori di teste. I migliori titoli di Milano, tanto per dare anche qualche buona notizia: Buzzi Unicem più 1,18, Campari più 0,7, A2A, CNH Industrial in rialzo di circa mezzo punto percentuale. Gli appuntamenti delle prossime ore: domani si riunisce l'OPEC a Vienna, quindi tema petrolio, poi c'è la riunione della Banca Centrale Europea, sempre a Vienna. Stasera abbiamo le immatricolazioni auto in Italia per quello che riguarda il mese di maggio. Direi che con la borsa e i mercati è tutto. Andiamo al nostro primo tema di oggi. Ma con piacere. Partiamo. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come adesso viene non giù. Piove, però è venuta giù tanta. Ma so che ieri, peraltro, mentre io ieri pomeriggio me ne sono partito, ho fatto questo mordi e fuggi a Roma, ieri in realtà su Milano so che veniva giù l'impossibile. Tutto, il diluvio. Comunque adesso a Milano fa così e così, no? Tempo incerto, un po' nuvolosino, però le previsioni non sono belle per i prossimi giorni, almeno al nord, ma dato che l'Italia è lunga, io chiederei ai nostri amici che ci ascoltano da tutte le parti d'Italia di diventare un po' i nostri meteorini e quindi chiamateci e diteci che tempo c'è nella vostra città, nel vostro paese. Tra l'altro, per chi è prossimo al ponte, ecco, anche qua. Allora, qua niente di buono. Io vorrei essere anche un po' solidale, essendo che io e te lavoriamo, perché ci trasferiamo a Trento, dove pioverà nei prossimi giorni, e pazienza, perché quelli che prenderanno la pioggia ci faranno compagnia ascoltandoci in radio. Certo, festival bagnato, festival fortunato. Peraltro le previsioni del meteo influenzano sempre chi progetta una vacanza, e anche nel settore turistico ovviamente si guarda a queste previsioni, in particolare guardano le previsioni del tempo chi lavora nell'ambito balneare. Sono tanti denari che si perdono, ne parleremo tra poco con un ospite al telefono, perché qua si fa già il piccolo monitoraggio preventivo di tutte quelle che saranno le iniziative per attirare turisti negli stabilimenti balneari, e però qua già maggio è andato e certo, gli introiti non è che sono stati tanti. D'altra parte però il clima non influenza solo i denari, no. Alzi la mano, no? Chi appena si sveglia non guarda fuori dalla finestra per sapere che tempo fa, no? E generalmente trovare una bella giornata tira sul cuore, ci sono persone a cui basta una bella giornata di sole, no? Per avere l'umore su, e al contrario un po' di nuvole, qualche goccia di pioggia è sufficiente per avere il morale sotto i tacchi, ma non tutto il male viene per nuocere, ne parleremo con un nostro esperto subito dopo il traffico. Cuore e denari. No, quest'anno al mare non andrò. Con te sulla spiaggia. No, cara mia, altro che spiaggia. Nei prossimi giorni Piazza Pasi a Trento al Festival dell'Economia. Comunque, nonostante il clima poco invitante degli ultimi giorni, il tempo delle vacanze estive sta per arrivare. Le spiagge, speriamo, torneranno protagoniste di una stagione all'insegna del relax in riva al mare. Allora, in vista intanto del ponte del 2 giugno, l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato il consueto monitoraggio sui costi dei servizi balneari. Dalle prime rilevazioni emerge un aumento abbastanza contenuto dei costi rispetto all'anno scorso. In realtà negli ultimi anni il trend è stato abbastanza stabile, quindi se non si lamenta Federconsumatori siamo tutti più contenti. A crescere maggiormente sarebbero comunque i costi dell'abbonamento giornaliero, complessivamente un rialzo di un punto e mezzo dei costi totali praticati dagli stabilimenti balneari. Crescono di più l'abbonamento giornaliero, decisamente più gettonato rispetto a quello mensile e stagionale. Aumenta un po' anche il costo della sdraio, tornata di moda per via però del costo ridotto di base. Allora, Mangi intanto è andato, affari pochi o tutto sommato è andata bene? Lo chiediamo a Riccardo Borgo, presidente nazionale del SIB, il sindacato italiano balneari, che è con noi. Buongiorno Borgo e ben trovato. Buongiorno. Allora, benvenuto. Con quali auspici si apre per voi operatori del settore questa stagione estiva? Ci racconti un po'. Qua la primavera, come dicevo, ormai sta andando. Con che bilancio? Sì, direi che purtroppo il bilancio del mese di maggio è assolutamente negativo, non è la prima volta peraltro, ma quest'anno si aggiunge a un tempo non bello, un tempo freddo, che è quello che pesa di più, anche perché se oggi in spiaggia quei pochi che vengono a farsi un caffè ci vengono con la felpa, col brusotto, e i nostri bagnini che stanno lavorando in spiaggia per rimetterla magari a posto dalla recente mareggiata hanno la felpa col cappuccio tirato su, evidentemente l'idea dell'estate non c'è ancora, e questo purtroppo è il dato, non c'è ancora idea dell'estate, e noi abbiamo molti clienti stagionali che non hanno ancora messo il naso in spiaggia, che la dice lunga, ecco, sul fatto che uno stagionale che va nella sua spiaggia. No, dove mi è finito? È andato in spiaggia, approfittando che non c'è nessuno, si è fatto un bel qua bagno. Qua non aveva la batteria a posto. Perché però abbiamo i nostri amici che c'hanno, diventano i meteorini di Cuore Denari. Tra l'altro l'ascoltatore che arriva da una città che io penso un po', non ho ancora mai visitato, e di questo mi pento amaramente, speriamo di avere ancora tempo per poterlo fare, magari mi invita il nostro amico, che dici? Proviamo. Lo salutiamo? Dai, Aldemiro, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Debora. Per intanto vi invito formalmente a visitare la straordinaria città di Matera. Esatto, però, io tra l'altro ho una casetta al mare a Metaponto, e vi posso garantire che sabato scorso c'erano le condizioni ideali per fare il bagno e lo abbiamo fatto. Che fortuna. Oggi invece è nuvolose, c'è una temperatura di 20 gradi e parecchia umidità. Tra l'altro, inerente ai costi, vi posso garantire che io ho già prenotato la stagione balneare. I costi sono rimasti invariati rispetto all'anno scorso. Vedi, abbiamo anche una segnalazione dei costi, quindi i nostri ascoltatori sono sempre più Cuore e Denari, vedi? Oltre che meteorini. Grazie Aldemiro per il suo reportage da Matera. Riccardo Borgo, completo con lei la nostra chiacchierata. Abbiamo riacciuffato appunto la telefonata che era andata persa poco fa. Allora, abbiamo parlato dell'Osservatorio Nazionale della Federconsumatori, che parla di costi rispetto appunto alle vostre attività contenute. Non aumentano da molti anni a questa parte, ma voi che cosa vi aspettate sul fronte appunto degli abbonamenti, e soprattutto le nuove proposte commerciali sulle quali punterete quest'anno per attirare sempre di più turisti? Quindi quali iniziative, sconti per anziani, per famiglie, gruppi, lettini a tempo? Ne abbiamo lette di tante, di tante modalità appunto negli ultimi anni. Cosa farete? In effetti la nostra politica da molti anni, peraltro anni di crisi, di conseguenza la crisi colpisce tutti, è un po' quella: ferme le tariffe. Mi fa piacere che anche da così lontano rispetto a me, che sono ligure, si conferma che le tariffe sono identiche a quelle dell'anno scorso, magari anche a quelle di 2 o 3 anni fa, perciò questo è il dato principale. E poi noi aguzziamo un po' l'ingegno, sconto del 50% in molti casi chi arriva a farsi il pomeriggio in spiaggia, un accesso simbolico per chi alle 5, alle 6 viene a farsi l'ultimo bagno, magari a farsi un aperitivo sui nostri terrazzi. Qualcuno applica il fine settimana 3x2, fai venerdì, sabato e domenica, paghi solo 2 e una giornata ce l'hai gratuita. Uniamo le famiglie, spesso le famiglie per risparmiare tendono a dividere non tanto l'ombrellone, perché in tanti sotto l'ombrellone si sta male, ma a dividere i costi della cabina, laddove si va solo per cambiare e lasciare lì qualche cosa e basta. Sono tutti elementi che portano a dire: negli stabilimenti balneari si può andare, si spende giusto. Io dico controllare bene le tariffe quando si accede in qualsiasi struttura balneare. L'obbligo è di mettere le tariffe bene in vista, di modo che non ci devono essere sorprese da parte di nessuno nel farsi la giornata sapendo esattamente quello che si paga. Questo è importante. Se non lo trovate segnalato all'organizzazione, questo è un dovere al quale noi teniamo, che è un dovere pari alla garanzia dell'assistenza in mare, della tranquillità per chi e fa il bagno. Ecco, chiarezza nel rapporto col cliente. Benissimo. Fatti chiare, amicizia lunga. Grazie. Grazie Presidente Borgo anche per quest'ultima raccomandazione molto di buon senso. Appunto, quindi chiariamo subito se abbiamo intenzione di stare un'intera giornata in uno stabilimento, quello che pagheremo praticamente in modo tale che la sera non ci saranno delle sorprese. Lo possiamo pretendere anche da questi operatori appunto professionali. E qua adesso che altro capitolo si apre? E qua adesso avremo Antonio dalla provincia di Messina, sì, perché abbiamo invitato i nostri ascoltatori a dire che tempo che fa. Antonio, buongiorno. Buongiorno a entrambi e a tutti gli ascoltatori. Allora, ecco, che tempo butta lì da lei? Ma a Taormina purtroppo sta piovendo. Però... lo so, beh, una cosa inedita per voi, eh? Cioè, lo dice con un tono proprio affranto il nostro amico. Anche perché sono di Milano, abito a lavoro a Taormina da 14 anni, per cui vedere la pioggia a Taormina mi lei ha fatto una bella scelta di vita, Antonio, per la quale la invidiamo anche un po', ma sa perché piove a Taormina? Perché invece ci scrive Valeria, a Sondrio splende il sole, per cui si sono capovolte un po' le cose, l'Italia, lo stivale si è ribaltato. Grazie anche al reportage meteo del nostro amico milanese trasferito in Sicilia. E noi abbiamo un milanese che ci farà da cavaliere perché abita proprio vicino a noi, è un amico di Cuore Denari. In linea abbiamo il dottor Attilio Speciani, allergologo immunologo a Milano. Buongiorno dottor Speciani. E buona giornata a voi. E buona giornata, dottore. Il ginocchio fa male, la schiena un po' indolenzita, il collo un po' incriccato. Allora, quando il clima ci si riflette anche un po' sulla nostra salute. Quante volte, no? L'abbiamo sentito dire anche le nostre nonne. Ho male al ginocchio, cambierà il tempo. Bene, e non dico tutto quello che succede al nostro umore, però non sono solo le nonne a dirlo, la conferma arriva anche dalla scienza. Insomma, il clima ci condiziona e parecchio, dottor Speciani. Ma è moltissimo, io devo dire ci sono tre ricerche sicuramente molto importanti, una ancora dal 2007 in cui un gruppo di reumatologi statunitensi ha proprio visto che soprattutto il dolore di ginocchio, il ginocchio è quello più sensibile, hanno una interferenza legata effettivamente alle condizioni del tempo, se c'è la pressione bassa fa più male, c'è una significatività molto elevata e questa è sentita. E poi ancora recentemente nel 2014 una ricerca olandese che ha visto che umidità, bassa temperatura e bassa pressione hanno indipendentemente dal livello dell'artrite un'accentuazione del dolore. E quindi è vero, le nostre nonne avevano ragione, addirittura pensi che un bel gruppo di ricercatori italiani hanno studiato anche un questionario per andare ad indagare la meteoropatia, no? Quindi ecco, esiste. Ecco. In molti paesi occidentali il mal di clima rappresenta una patologia ufficialmente riconosciuta, no? Infatti ci sono degli appositi specialisti. In Italia la maggior parte della classe medica invece considera ancora il meteoropatico, insomma, una persona un po' che si lamenta di gamba buona. Per noi che lavoriamo sull'infiammazione, devo dire che spesso quando si riduce l'infiammazione cambia anche il tipo di risposta al tempo esterno. È importante riconoscerla, sapere che c'è, ma non solo, sapere che poi ad un certo punto certo che si mischia anche con un aspetto emotivo-emozionale. Però... abbiamo bisogno di sole, usciamo dall'inverno cercando il sole in tutti i modi, so che abbiamo fatto una trasmissione discutendo proprio di questo aspetto e poi il sole non c'è. Sai. Allora, nell'attesa che arrivi il sole attendiamo anche il dottor Speciani qua in studio e noi andiamo, lo ringraziamo, andiamo a sentire che cosa ci raccontano al nostro GR e poi torniamo di nuovo insieme, a tra poco. Grazie dottore. Inizia la settimana della moda, il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale, nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Vivacissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà. No, non abbiamo sbagliato colonna sonora per far ripartire Cuore e Denari. Sì, abbiamo così voluto anticipare il mese prossimo perché nel mese di luglio si ammorbidiscono un po' le scadenze fiscali, in primis quelle che riguardano il modello 730. Il limite massimo, infatti, per consegnarlo slitta dal 7 al 22 luglio, quindi ci sembrava una buona notizia, ve la volevamo dare. Ma non solo, trovate tutte le informazioni sul Sole 24 Ore, noi stiamo condividendo proprio adesso il link anche dai nostri profili Facebook e Twitter. Questo però non deve farci dimenticare che invece il mese di giugno ha le sue scadenze fiscali, scadenze che riguardano in particolare le tasse sulla casa, perché ancora le deve pagare. D'altronde il commercialista ci ha comunicato gli importi proprio negli ultimi giorni, per cui siamo ancora tutti tranquillamente in tempo. Allora, di queste ci occupiamo oggi in particolar modo, e tenete bene a mente la data fatidica, giovedì 16 giugno. Un'altra fatidica il giorno dopo, il 17 giugno. E anche qualche giorno prima, adesso non mi far fare i conti. È un mese ricco di compleanni, ve lo dico già, e quindi attenzione. Possiamo dare anche i numeri? Perché se poi vi dimenticate ci offendiamo anche un po'. 8 e 17, magari esatto. Le giocano. Magari ci mandano anche dei regali, hai visto mai? Ma dai. Secondo voi, tra le due conduttrici di Cuore e Denari, chi fa il compleanno l'8 giugno e chi il 17 giugno? Lanciamo il quizzettone se volete i libroni di Cuore e Denari. Ritorniamo un po' invece a casa nostra. Allora, notizia importante è che la manovra di stabilità del 2016 ha cancellato le imposte sulle abitazioni principali non di lusso, e quindi praticamente tutte le case tranne 73.000 che secondo il nostro catasto sono top di gamma, ma ha lasciato invariato il quadro sugli altri immobili. Entro il 16 giugno dunque i contribuenti sono chiamati a versare l'acconto controllando le decisioni dei loro comuni. Tutto chiaro? Cercheremo di capirlo stamattina intanto con le vostre domande all'800 24 00 24, oppure messaggi al 349 238 6666. Riceviamo sia SMS che WhatsApp, ma soprattutto tempesteremo di domande Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore. Ciao. Buongiorno. E Luigi Lovecchio, dottore commercialista, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, una firma che in questi giorni vediamo comparire molto spesso proprio su questi argomenti. Lovecchio, ben ritrovato, buongiorno. Grazie, ben ritrovati anche voi. Benvenuto. Buongiorno. Allora, per chi intanto, dopo aver sentito questo nostro approfondimento di questa mattina, rimanesse un po' asciutto di informazioni, se nel caso non le dovessimo dare tutte, c'è anche oggi una guida di 16 pagine in vendita, ecco, lo voglio precisare con grande trasparenza, con il Sole 24 Ore, al prezzo di 2 euro, una guida proprio al calcolo nel versamento dell'acconto IMU e TASI delle 16 giugno, per cui ci sono tutte le novità, le conferme, tutte notizie da esaminare con prudenza. Allora Cristiano, parto subito con te. Primo anno senza TASI sulla prima casa, visto che è sempre facile sbagliarsi, però ricordiamo proprio con grande precisione che cosa è stato abolito. Sì, esatto, è il primo anno, scadenza dicevi del 16 giugno, in cui non si va a versare né la TASI né ovviamente l'IMU sulle abitazioni principali non classificate nelle categorie A1, A8 e A9, categorie catastali che contraddistinguono le abitazioni di pregio. L'abitazione principale, importante ricordarlo, è quella in cui il contribuente ha la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale. Questo è il requisito per poter considerare la casa appunto abitazione principale e quindi non andare a pagare. Poi ci sono una serie di altre situazioni che invece vengono assimilate per legge o in un caso solo per decisione del comune alla abitazione principale, e quindi quando abbiamo la assimilazione vuol dire che la casa è praticamente parificata all'abitazione principale, e quindi anche in questo caso possiamo non pagare. Certo. Vogliamo ricordare anche, dottor Lovecchio, qui vengo a lei, che cos'è esattamente la TASI, la tassa sui servizi indivisibili, per chi avesse, come dire, non fatto attenzione a questa notizia, per chi fosse sfuggita appunto la definizione completa di questo concetto, di questi servizi indivisibili. Lovecchio. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, adesso sì. In realtà è un duplicato dell'IMU, cioè non ha una grande sua peculiarità, una grande ragione d'essere. È stata creata questa imposta per sostituire l'IMU sull'abitazione principale, perché era stata tolta l'IMU sull'abitazione principale, allora per ridare ai comuni il gettito che era perso con l'esenzione dell'IMU è stata istituita la TASI, che però adesso ha ovviamente meno senso in assoluto, perché avendo tolto anche la TASI sull'abitazione principale siamo di fronte a due imposte gemelle sulla medesima base imponibile. Il riferimento ai servizi indivisibili è un riferimento meramente teorico, meramente astratto, perché in realtà quello che noi paghiamo a titolo di TASI è un'imposta, né più né meno, non è una tassa ma è un'imposta, e va pagata perché lo dice la legge, non perché il comune mi presta il servizio dell'illuminazione o perché mi ripara le strade o cose di questo genere. Anche quindi, se viene fatto passare come questo concetto in realtà. Sì, ma non è così infatti, è un'imposta, come tutte le imposte non hanno un vincolo di destinazione, uno le paga per finanziare genericamente la macchina comunale, e men che meno io mi posso permettere di dire non pago perché il comune non mi piace come sta facendo, esatto, come sta facendo le fognature o appunto come ha gestito l'illuminazione della piazza principale. Tra l'altro Cristiano Dell'Osta voleva aggiungere qualcosa, ma ci aggiungo anche un'altra domanda alla considerazione di Cristiano. Con l'abolizione della TASI a quanti soldi rinuncia lo Stato italiano? Possiamo quantificare quanti italiani si trovano sollevati da questo impegno economico e qual è il risparmio medio? Sì, certamente sì. Noi sappiamo che le abitazioni principali sono 19,8 milioni, quindi poco meno di 20 milioni di abitazioni principali, alcune di queste sono in comproprietà, quindi i contribuenti sono verosimilmente un po' di più di 20 milioni, l'importo medio è nell'ordine dei 200 euro ad abitazione, quindi questo è il valore, per così dire, dello sconto. Nell'insieme parliamo di circa 4 miliardi di euro, questo per dare più o meno le coordinate generali. Ecco, diceva giustamente Lovecchio una cosa importante: la TASI è stata abolita sulle abitazioni principali, rimane in quei comuni che l'hanno prevista sugli immobili diversi dall'abitazione principale che sono ancora soggetti a IMU. Noi sappiamo statisticamente che l'ha fatto circa un comune su due, quindi in metà dei comuni va di fatto pagata soltanto l'IMU sulle abitazioni diverse dalle prime case. Nell'altra metà dei comuni, sempre sugli immobili diversi dalle prime case, io mi trovo a dover pagare sia l'IMU che la TASI, che come diceva giustamente Lovecchio, essendo un duplicato, è una piccola addizionale. Esatto, certo. Si configura, diciamo, in modo improprio, però di fatto questo è, come una sorta di piccola addizionale all'IMU, che ha la sua aliquota, il suo codice tributo, quindi è una complicazione nel versamento, perché vado ad aggiungere una piccola fettina di un'altra imposta, ma che segue la stessa base imponibile. Chiariamo anche, Cristiano, il concetto dell'abitazione diversa dalla prima casa, dall'abitazione principale? Sì, beh, questa diciamo è l'abitazione in cui il soggetto non ha la residenza, poi può essere utilizzata in vario modo, potrebbe essere un'abitazione che io ho dato in affitto e in questo caso potrei vedere, guardando la delibera del comune, che ci sono delle aliquote specifiche, magari differenziate tra affitto libero e affitto concordato, e ricordiamo che per gli affitti concordati quest'anno c'è una riduzione che si può applicare già a giugno del 25% sia dell'IMU che della TASI, oppure potrebbe essere una casa che io sto tenendo sfitta, vuota o come seconda casa, quelle che tecnicamente chiamiamo case a disposizione. E allora in quelle situazioni devo di nuovo andare a vedere se il comune ha previsto, questo spesso ha un'aliquota più alta, una sorta di penalizzazione andando a tassare di più le case che vengono tenute sfitte, certo. Anche se poi sappiamo che magari questa non è una scelta del proprietario, ma è una scelta di mercato, una direi, scelta in questo di mercato periodo, esatto, o l'impossibilità di trovare un utilizzo, perché magari la casa è una casa ereditata in un paese sperduto lontano dalle grandi città. Insomma, metterla sul mercato è difficile, esatto, sia per la vendita che per l'affitto. Esatto. Intanto, Lovecchio, torno da lei. IMU e TASI restano da pagare anche per alcune tipologie di immobili, a cominciare dalle abitazioni considerate di lusso. Ricordiamo come facciamo a sapere se la nostra casa rientra in questa classificazione. Io ho un'idea abbastanza chiara che la mia abitazione non sia un castello, però magari se qualcuno qualche dubbio ce l'avesse sulle qualità e il pregio della propria abitazione, come può fare ad avere un'informazione precisa sulle caratteristiche? Sì, l'unico modo è quello di fare una visura catastale dell'immobile. Se uno ha sotto mano l'atto di acquisto, ovviamente nell'atto di acquisto sono riportati gli estremi catastali, altrimenti si fa una visura catastale e si vede se l'immobile è classificato, come ricordava anche prima Cristiano, nelle categorie A1, A8, A9. Quindi case... allora, categoria catastale A1, abitazione signorile, A8 villa, A9 castello. Castello, esattamente. queste sono le ipotesi in cui, se io abito in uno di questi immobili, devo continuare a pagare le imposte normalmente, perché non sono diventati esenti. Andiamo adesso alle aliquote per chi deve continuare appunto a pagare, perché ci ricordiamo molto bene come negli anni passati abbiamo assistito a molti valzer, no? Sulle aliquote applicate dai comuni. Allora si aspettavano i tempi dei comuni, le decisioni non arrivavano mai, non si sapeva quanto si dovesse pagare. Mi pare di capire che però, tra le altre buone notizie, così non sarà quest'anno, Cristiano. Sì, esatto, proprio così. Diciamo che per quanto riguarda l'acconto, noi abbiamo un riferimento che è la norma di legge, che ci dice che noi l'acconto di giugno lo possiamo pagare prendendo come riferimento le aliquote e le detrazioni decise dai comuni per i 12 mesi precedenti. Quindi in qualche modo noi abbiamo questo punto fermo. Poi però possiamo fare anche una verifica ulteriore, cioè andare a vedere se nel frattempo il comune avesse adottato una delibera nel 2016, queste delibere non possono prevedere, perché lo dice la legge di stabilità, degli aumenti delle aliquote, ma potrebbero eventualmente aver previsto qualche sconto. Allora in questo caso, se il comune avesse già votato una delibera che abbassa l'aliquota rispetto al 2015, io potrei ragionevolmente già tenerne conto nel pagamento che vado a fare adesso al 16 giugno. Dovessi non accorgermene, dovessi dimenticarmene, vado a conguaglio poi a dicembre, e quindi quello che eventualmente avessi pagato in eccesso a giugno lo posso recuperare pagando poi un po' meno a dicembre. Senti, molti comuni hanno abbassato le aliquote? Esiste un monitoraggio chiaro? Non abbiamo un monitoraggio. L'impressione è che gli sconti siano limitati a dei casi particolari, a delle situazioni, ma in genere non ci sono margini perché i comuni possano fare delle significative riduzioni di aliquota. Certo. Intanto allora sono in arrivo le prime telefonate dei nostri ascoltatori, ma volevo anche leggere questo messaggio di Antonio, perché ripropone un'altra questione che pure in passato aveva costantemente suscitato forti polemiche e perplessità da parte dei contribuenti. Non capisco perché, essendo residente in un'altra regione per lavoro, dove sono in affitto, la mia unica casa di proprietà è considerata seconda casa. C'era anche la famosa questione degli anziani ospiti di case di riposo, no? Che essendo ospiti appunto di case di riposo, la loro prima abitazione veniva assimilata ad una seconda casa e quindi li dovevano versare tutte le imposte. Ecco, sono state chiarite queste situazioni? Allora, partiamo dal caso degli anziani. Questa è la situazione in cui il comune, se vuole, può deliberare di assimilare, cioè di parificare la casa in cui diciamo non abita più l'anziano che ne è proprietario o anche il disabile, ha un'abitazione principale, e quindi se il comune vuole gliela può esentare. Questo a condizione che l'anziano o il disabile abbia preso la residenza in un istituto di ricovero o in un istituto di cura in modo, diciamo, permanente, e a patto che la casa non sia affittata, certo, ovviamente sia vuota. Diciamo, con questi due requisiti il comune può deciderlo, ma bisogna andare a vedere se l'ha deciso il comune. Certo. Invece, esatto, per chi lavora fuori? E per chi lavora fuori qui è più un discorso generale, perché io potrei anche avere un'unica casa e magari dover vivere in affitto in un'altra città, oppure non riuscire a venderla. Certo. Il problema però vero, la casa di proprietà rimane quella. Il problema vero è che noi parliamo sempre di prima casa, ma in realtà la prima casa, se non hai i requisiti per poter essere considerata abitazione principale, cioè se io non ho la residenza e la dimora, è quella purtroppo viene tassata, e il prelievo non è modulato in modo tale che aumenti all'aumentare degli immobili posseduti. Questa è un po' la logica che è stata seguita, ed è un problema più generale di impostazione del tributo. Certo. Allora, le questioni, Nicoletta, di carattere generale più o meno le abbiamo chiarite. Adesso abbiamo qualche situazione particolare sulle quali ci chiedono aiuto i nostri ascoltatori. Vuoi Tina o Tony? Inizierei da Tina. Tina, certamente. Tina, buongiorno. Pronto, buongiorno. Eccoci a lei. Ecco, siete sempre stupende, toccate sempre il Bene. Punto cruciale delle situazioni. Sapevo che dovevo andare da Tina, vedi? Ecco, esatto. Intanto Tony si prepari anche lei, eh? Esatto. Prima le donne. Ecco, allora, è sempre questa situazione un po' ostica delle abitazioni condivise, cioè dei figli ereditati dai genitori. Noi siamo cointestati, io e mio fratello, c'è anche un'altra parte della sorella in parte minore, che sarebbe l'unica a dover pagare come seconda casa, perché mio fratello risiede nella sua e da sempre, da quando si è sposato, questa è la casa dei miei, siamo tutti cointestati, però ci risiedo io, la mia unica residenza, perché abbiamo venduto quella della montagna, eccetera. Per cui spero che da quest'anno la dobbiamo smettere di pagare come seconda casa entrambi. Certo. Allora, ecco. Tina, se non ho capito il ragionamento che i nostri ospiti però aspetti li hanno fatto fino a questo momento, forse lei non paga? Ma non ho capito, per le rispettive quote di possesso, i fratelli come devono comportarsi. Sì. Luigi Rovecchio, vengo da lei. Sì, se ho capito bene, c'è una situazione di comproprietà riveniente da successione ereditaria su determinati immobili, e su questi immobili che sono in comproprietà tra più fratelli, ognuno magari è abitato da un fratello diverso. Adesso non so se ho capito. È Tina che abita in questa abitazione, che abita in questa abitazione come abitazione principale, immagino. Esatto. Tina, me lo conferma? Esatto, esatto, esatto. Mentre però è in comproprietà con altri, questa abitazione. Con l'altro fratello, ecco, sì, che ha la sua residenza a Magenta. Vabbè, io sono un vicino, zona in provincia di Milano, e quindi praticamente per entrambi è residenza principale, anche se mio fratello è contestato sulla mia, io sono contestato sulla sua. Ecco. Allora, aspetti un attimo, che qua allora è un po' quindi più, sì, credo di aver capito bene. Ci sono due unità immobiliari in comproprietà tra i due fratelli. Queste due unità immobiliari sono abitate ciascuna da uno dei due fratelli. Allora, se è questa la situazione, continueranno a pagare, nel senso che sulla quota che è in proprietà del fratello che non abita dell'immobile, quella è considerata come seconda abitazione, e lo stesso vale per l'altra. Quindi la quota dei due fratelli che è riferita all'immobile sul quale non abitano è considerata seconda casa, per capirci, e quindi su quella continuerà ad essere pagata. Quindi ci sono due case in ballo, io non avevo capito, mi sbaglio, su cui ci sono delle partecipazioni di proprietà incrociate sulle quali si deve pagare. Esatto, io se non ho capito male, come dice giustamente Luigi, sono due case, entrambe a metà tra fratello e sorella, in una abita il fratello, nell'altra abita la sorella. Ovviamente ciascuno dei due sulla metà di casa che non è, diciamo, di propria proprietà, che è di sua proprietà ma in cui non abita, e beh, e lì deve pagare come la seconda casa. È correttissimo quello che sembra, dice Luigi. Sembra, sai, una cosa di logica, un indovinello. Esatto. Tony da Pordenone, benvenuto. Buongiorno. Eccoci a lei. Grazie dell'opportunità e complimenti a tutti, alle conduttrici e ai qualificati consulenti. Allora, brevissimamente, il mio problema è questo. Io ho sempre vissuto nella casa di mio figlio, abitavamo tutti assieme. Ora mio figlio si è trasferito e mi ha lasciato la casa incomodato. Fino all'altro anno era parificata il comodato e non si alla pagava prima lì. Casa, esattamente. Adesso non è adesso, più così, Pordenone. Tony, sì. Adesso, purtroppo, anche lo sconto del 50% non viene dato se il comodante non risiede nello stesso comune dove ha. Ecco, in questo caso mio figlio ha un'unica casa, perché dove si è trasferito è in affitto. Non capisco perché deve pagare per una seconda casa possedendone una che ha dovuto dare incomodato ai genitori. Tony, grazie. Allora, lei ha dimostrato di conoscere perfettamente la situazione, il tema è che la contesta, che non gli piace Cristiano. Sì, sì, il nostro ascoltatore è ben informato, nel senso, lo diciamo anche a beneficio degli altri, le case date in uso gratuito, in prestito, tecnicamente incomodato, tra genitori e figli, l'anno scorso potevano essere parificate dai comuni alla prima casa, e di fatto circa 1700 comuni l'avevano fatto. Quest'anno le regole sono cambiate. Queste parificazioni, anche dove fossero state deliberate, cadono automaticamente per legge, e arriva invece una nuova agevolazione che potenzialmente si applica su tutto il territorio nazionale, che consiste non più nella parificazione all'abitazione principale ma in uno sconto del 50% sull'IMU e sulla TASI decise dai comuni. Il problema è che questa agevolazione, che è automatica e prevista per legge, ha dei requisiti molto restrittivi. Uno di questi requisiti è che il comodante, cioè colui che dà la casa in prestito a, in questo caso al genitore, ma potrebbe essere anche la situazione inversa, deve avere la residenza nello stesso comune in cui si trova la casa che ha dato in prestito. Quindi, anche se rispetta tutti gli altri requisiti, ma risiede in un comune esterno per quanto vicino, in un comune diverso per quanto vicino, non ha le carte in regola per l'agevolazione. Insomma, l'avremo anche abolita sull'abitazione principale, ma la casistica che è rimasta è abbastanza complicata. Ogni sì, soprattutto questa sui comodati è un'agevolazione che ha tanti paletti. Sui comodati e soprattutto paletti. Sulle comproprietà. Ovviamente. Sì, diciamo che ci sono ancora diverse situazioni in cui la verifica va fatta, non si può limitarsi a copiare quanto pagato l'anno scorso. Esatto, chiuderei con il caso di Clotilde da Bergamo, se non fosse altro che ripropone la questione delle case di riposo su cui siamo molto tornati. Sensibili, esatto, con Nicoletta, quindi Clotilde ci dica al volo, grazie, poi chiudiamo questa parte. Sì, buongiorno e complimenti. Io ho una mamma di 89 anni che ho portato qui in provincia di Bergamo in casa di riposo. Sì. La sua casa è diventata seconda casa per il comune e pago quasi 1000 euro di IMU. Ah. Io l'ho affittata perché purtroppo non sono riuscita a venderla negli anni e percepisce il suo reddito totale di mia mamma è 12.000 euro. Io volevo chiedere se il comune non ha fatto delibere di questa assimilazione parificata, sì, almeno per le persone che superano gli 85 anni, è possibile fare una richiesta tramite degli uffici legali la delibera? Allora Clotilde, vediamo un po' Luigi Lovecchio se ci aiuta a dare una mano a questa famiglia. Lovecchio, peraltro questa casa, da allora questa signora anziana si è trasferita a Bergamo, la casa è in Liguria, adesso non che ci interessi la localizzazione, però così per completare un po' la storia di Clotilde. Lovecchio. Sì, non ho capito se la signora vuole sapere se si può obbligare il comune ad adottare la delibera di assimilazione. Penso di sì. Se questa è la domanda, no, non si può obbligare che un singolo contribuente si faccia addirittura protagonista di questa battaglia che no, creerebbe anche un precedente, immagino. Purtroppo no, aggiungo semplicemente un'ultima cosa, che quando anche il comune l'avesse assimilata, gli immobili locati comunque non rientrerebbero nella fattispecie di assimilazione. Ovviamente la signora l'ha locata perché siccome non c'è la assimilazione deve, certo, pagarci le imposte e quindi quantomeno ci ricava un reddito da cui paga le imposte. Esatto, in ogni caso non è possibile costringere il comune ad adottare la delibera. Grazie, grazie a Luigi Lovecchio. A Cristiano allora Dell'Oste. Aiutiamo anche Ciro. Vuoi aiutare anche sì, Ciro? Perché la sua domanda riprende anche altre domande che sono arrivate al 349-238-6666 e dice: Ciro ha lasciato la sua casa di proprietà alla sua a sua moglie e ha cambiato residenza, vive in affitto in un'altra città, sì, ci chiede che cosa devo fare. Allora, andiamo a Luigi Lovecchio, ha sentito questa domanda? Sì, sì, ho sentito. Allora, qui bisognerebbe capire se ha lasciato la casa alla moglie perché c'è stata una sentenza di separazione, sì, o divorzio, sì, perché se ci fosse stata una sentenza di separazione e divorzio con assegnazione della casa al coniuge, quella casa è è equiparata, chiamiamola così, all'abitazione principale e quindi diventata esente sia da IMU che da TASI, quindi significa che non dovrebbe farci niente. Se c'è questo, altrimenti se non c'è questo, cioè i due coniugi sono ancora, hanno semplicemente residenze separate perché per ragioni di lavoro, per le ragioni più disparate possibili, allora a questo punto quella casa nella quale risiede il coniuge, se è intestata al marito che non risiede più in quella casa, è considerata come seconda casa, per capirci, quindi su quella si pagheranno le, certo, imposte regolarmente. Allora, se avete altre domande scriveteci a cuoredenari@radio24.it, il nostro filo diretto con i nostri esperti è sempre aperto. Intanto ringrazio di nuovo Cristiano Dell'Oste. Grazie a voi e grazie a Luigi Lovecchio. Grazie a voi. Noi poi adesso ci muoviamo esatto, proprio, e poi parleremo dei vantaggi dell'attività sportiva ma anche dei rischi dell'inattività. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento, vi presenta Cuore e Denari. Mi chiamo Ruben Nosave, io sono un professore argentino, io vengo da Buenos Aires, io insegno in università in Buenos Aires, a una cattedra di sport, e io vado dicendo da molto tempo al mio paese di quello che io penso, una missione che si deve avere il coraggio di dire. Una voce forte e chiara, scientifica, che si alza e dice: il sport fa male. Tutti vuole stare in forma, andare in palestra, se deve avere il coraggio di dire: il sport fa malissimo. Il sport fa male fisicamente, il sport fa male alla gamba, fa male alla schiena, fa male al cuore, fa male al polmone. Non c'è una parte del corpo che il sport non ti fa male. È un professore molto convincente, Deborah. Allora, in certi momenti non ha proprio tutti i torti, perché qualche doloretto, anche io che sono allenata, veramente me lo porto sempre a casa. Allora, sarà l'età quella, però no, non è troppo sport, che età, è l'età che va ma su. Che età. Comunque il 40% degli italiani fa proprio quello che il professore dice, infatti dichiara di condurre una vita sedentaria. Sono oltre 23 milioni gli italiani che prediligono la poltrona. I dati arrivano da un punto di osservazione assolutamente privilegiato, il CONI, ma sono allineati anche con le ultime stime diffuse dall'Istat, in base alle quali solo il 21,9% dichiara di praticare attività sportiva in modo continuativo, il 9% in maniera saltuaria, mentre quasi il 30% 30% dichiari di fare qualche forma di attività fisica, passeggiate, nuoto, un po' di bicicletta, svolgere altre forme di attività motorie, insomma, tanto per gradire, perché a muoversi si fa fatica. O c'è dell'altro? Provate a dircelo voi all'800 24 0024. Intanto vi facciamo sentire quello che ci ha raccontato il nostro ascoltatore. Io le ho provate tutte. Già da piccolo avevo capito che lo sport non facesse per me. Ma mia mamma mi ha iscritto a nuoto, a tennis, a pallacanestro, pensando che mi facesse crescere, tra l'altro. Poi però è arrivato il tempo dell'autogestione. Musica, libri, motorino. Ero ragazzo. E non muovevo un passo. Quando ho compiuto 30 anni mi sono detto, devi riprovare. Sono andato in piscina, ma che noia. Mi sono iscritto in palestra con un amico, di male in peggio. Poi ho avuto una fidanzata salutista che mi portava a camminare in montagna. La storia è finita dopo 2 mesi. Adesso sono libero e in poltrona. Io sto benissimo, ma alla fine l'idea che mi privo di qualcosa che potrebbe farmi bene mi dà fastidio. Perché non date voce anche al popolo dei sedentari, consigliando qualcosa di alternativo alla fatica fisica, ma altrettanto salutare? Grazie. Beh, mica male, no? Ha ragione. E le ragioni che ci spingono all'inattività, o meglio alla sedentarietà, attenzione, i due termini non sono sinonimi, lo scopriremo nel corso di questa ultima parte di Cuore Denari, possono essere diverse. Allora, nell'attesa che qualcuno scopra il gene della sedentarietà, sono certa che prima o poi qualcuno lo farà, ci sono motivi molto comuni, no? Che ci tengono legati alla poltrona, una leggera e sana dose di pigrizia, magari una particolare sensibilità alla fatica, c'è, no? Ma uno dice sì. Faccio proprio fatica, non sì, c'ho sì, fisico. L'avversione anche per la competizione, una struttura fisica e motoria più incline, diciamo, al pensiero che al gesto. Insomma, se vi riconoscete, chiamateci, restate con noi. Intanto noi andiamo a salutare il nostro ospite, il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Allora, dottore, ogni giorno ci sentiamo ripetere che per stare bene dobbiamo darci una mossa, o meglio, praticare attività fisica regolare, e ci dite che basta una camminata oppure mezz'ora, 3 giorni alla settimana di un'attività fisica a nostra scelta, no? Probabilmente abbiamo metabolizzato l'idea che muoverci ci aiuta a stare bene, ma facciamo un po' fatica a capire che restare fermi ci fa male, e c'è un po' di differenza tra questi due concetti, non sono uno il contrario dell'altro. Dottor Confalonieri. Certo, c'è una profonda differenza. Diciamo che muoverci in modo continuativo e programmato ci allena, cioè migliora le capacità prestative, la funzionalità del nostro organismo. Non muoverci assolutamente, quindi essere inattivi in modo totale, invece porta a un decadimento del nostro organismo in termini di forza, in termini di funzionalità cardiovascolare e dei diversi organi. Quindi la situazione è profondamente diversa, e sarebbe importante differenziare davvero la popolazione in coloro che fanno esercizio fisico regolare, coloro che sono completamente inattivi, e questa popolazione che sta nel mezzo, che pur non amando l'esercizio fisico potrebbe tenere il suo corpo attivo. Dottor Confalonieri, allora ci sono delle ricerche che ci piacciono, anche abbastanza curiose perché sono facilmente notiziabili, no? Che però arrivano da degli studi assolutamente rigorosi, no? Che dicono che stare troppo seduti fa male, e quando diciamo seduti vale per chi sta seduto alla scrivania per lavorare oppure per chi sta spaparanzato sul divano per guardare la TV. Il risultato non cambia. Sembra che l'inattività accorci la vita. Però la buona notizia è che basta poco per evitare questo rischio. Dottor Confalonieri, sedentarietà e inattività sono due concetti che abbiamo detto che avremmo chiarito. Ci dà una definizione così vediamo in quale dei due gruppi ci possiamo riconoscere? Ma la persona sedentaria è quella che non pratica sport in modo continuativo. La persona inattiva è proprio quella che non si muove. E quindi io direi, vorrei proprio dare dei consigli molto pratici per entrare in quella categoria che rispetta il suo organismo pur non amando, per tutte le ragioni che voi avete detto prima, l'esercizio fisico praticato in modo continuativo. Non so, posso procedere in questa direzione? Consigli molto pratici, anche un po' provocatori, se sì, vogliamo. Intanto voglio leggerle un messaggio che è arrivato per rincuorarci da un nostro ascoltatore via WhatsApp, che a lei piacerà molto. Ho fatto ho fatto il sedentario, già mi piace, fino a 2 anni fa, fumatore e 115 kg. Poi ho cominciato con bici e passeggiate, ora mi ritrovo a 85 kg, ho smesso di fumare e ho 50 anni. Ecco, quello, seconda vita, gli anni non ce li toglie l'attività fisica, certo, però ce li fa vivere meglio. C'è e poi chi sfila. Vive la seconda parte della sua vita molto meglio di come non abbia certo. vissuto la prima parte. Io mi sento oggi molto più in forma di quanto non mi sentissi a 25 anni, posso dirlo? È così. È così. Dottor Confalonieri, allora. Diciamo che questo nostro ascoltatore ha già fatto il secondo passo, proviamo a fermarci al primo passo. 3 consigli molto semplici. Il primo, sul lavoro. Una volta era di moda la pausa sigaretta, ancora tanti fanno la pausa sigaretta. Bene, chiamiamola pure pausa sigaretta o pausa fitness o pausa movimento. Invece di uscire ogni 30, 45, 60 minuti per fumarci una sigaretta, ci alziamo, facciamo 2 passi, ci muoviamo, stiamo semplicemente in stazione retta, fingiamo di avere una sigaretta da fumare, però mettiamo il nostro corpo in movimento e modifichiamo la postura. Quindi instauriamo nella nostra vita lavorativa la pausa benessere, la pausa fitness. Questo I suoi colleghi consiglio. Parlano infatti di snack di attività fisica, perfetto, no? Mi riferisco a questo bellissimo. Studio che abbiamo letto, che ogni 30 esatto. minuti, uno studio australiano, dice ogni 30 minuti di posizione seduta, alzati e cammina, in fondo. Certo, io dico sostituiamo la pausa sigaretta, che una volta facevamo un po' meno tutti, con una pausa benessere, pausa attività, ma senza fare nulla di speciale, 2 passi e stiamo un poco in piedi. Infatti io vado a trovare Debora. Perfetto. Sì, qua, sì, perché noi siamo lontani. Per il popolo del divano, che è sì. tanto. Allora, 2 cose molto semplici. La prima, magari o quando siamo al divano o quando siamo al computer perché siamo vittime o comunque protagonisti del web, un poco di elettrostimolazione, semplicissima, a livello delle gambe. Cioè? Sono programmi semplicissimi, compriamo un elettrostimolatore, si trovano a costi bassissimi, applichiamo il programma di rafforzamento dei muscoli delle gambe, preveniamo quello che è il decadimento muscolare più grave, proprio quello dei muscoli delle gambe, che poi porta tutta una serie di complicazioni a livello del ginocchio, restando sul divano o restando seduti al computer. Basta applicare i programmini già predeterminati di potenziamento del quadricipite femorale. Dai, e degli adduttori. E il quadricipite si muove e noi stiamo meglio. Ma per quanto? Quanto tempo? Ma i programmi durano 15-20 minuti, li facciamo 2-3 volte a settimana e i risultati sono straordinari, continuando a seguire il nostro programma, la nostra partita preferita. È un consiglio provocatorio, ma vi garantisco che io ho seguito tantissime persone che attraverso questo hanno potuto rinviare interventi e operazioni al ginocchio semplicemente perché mantenevano tonica la muscolatura. E poi, se mi permettete, se c'è il tempo, una terza provocazione. Sì. Weekend si fa l'allenamento lungo, come in tutti i programmi sportivi di allenamento che si rispettino. Allora, programmiamo davvero i nostri weekend in questo modo. Una settimana lavaggio dell'auto, se amiamo l'auto, abbiamo la moto. C'è anche quella di Debora a disposizione, se non ne avete esatto, una. Magari quella dei nostri amici, anche la mia. Comunque c'è anche la Emma fisico. Da portare a spasso però, volendo. Certo, e anche da lavare. Non parliamo di quei cani che già vanno, sono molto avanti. Ma comunque, lavaggio dell'auto. O della moto, comunque ci impegna una volta al mese. Riordino di una stanza della nostra casa, di una libreria, di uno spazio, ci impegna un'ora e mezza fisicamente una volta al mese. Una volta al mese scegliamo una mostra che ci piaccia e ci teniamo in movimento, e una volta al mese andiamo a farci la classica passeggiata o la classica gita in compagna. Sembrano banalità, ma se noi riusciamo a organizzare la nostra vita con lo snack fitness, con un pochino di potenziamento dei muscoli anche quando siamo seduti, e con un weekend in cui comunque un'ora e mezza certo. ci muoviamo, utilizziamo il nostro corpo senza allenarci, perché siamo proprio lontani dall'idea di allenamento, abbiamo fatto il primo passo. Fatto il primo passo diventa gli altri molto diventano più molti fare più quelli semplici. Dopo. Esatto. Grazie dottor Confalonieri per essere stato con noi. Noi andiamo di passo veloce alle informazioni sul traffico e poi andiamo a fare un passo ulteriore, cioè dopo gli snack di attività fisica andiamo a qualcosa di un pochino di più sostanziosa. Cuore e denari. E siamo tornati, oggi parliamo di passi dell'importanza di aggiungere un po' di movimento alla nostra giornata. Il dottor Confalonieri ci ha parlato degli snack di attività fisica, adesso facciamo qualche cosa, un passetto avanti, qualcosa di più sostanzioso della serie per piacere o per dovere. Ho deciso di muovermi per stare o ritornare a stare bene. Benissimo. Quindi, in un certo senso, in questa fase stiamo puntando sull'effetto preventivo dell'attività fisica. Ma come funziona? E cosa dobbiamo sapere per essere ricompensati dai nostri sforzi? In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Giuseppe Pugliese, docente presso l'Università La Sapienza e dirigente dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, abbiamo già i nostri ascoltatori in linea all'800 24 00 24. Abbiamo Gabriella da Vicenza e Massimo da Catania, a cui chiediamo di aspettare un momentino, perché professore, allora, 150 minuti a settimana di attività fisica per gli adulti, 60 minuti al giorno per i bambini e i giovani, sono due delle raccomandazioni emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con le nuove linee guida per l'attività fisica 2016-2020. I vantaggi sono assicurati, lo dicono, no? Le ricerche, pressione e glicemia e tornano ai livelli ottimali, se ne avvantaggia anche il cuore. Addirittura ci sono studi che hanno evidenziato il ruolo preventivo dell'attività fisica nei confronti di alcuni tipi di tumore. Ma che cosa rende l'attività fisica capace di fare tutto questo? Cosa succede mentre i nostri muscoli lavorano? Professore. Ma guardi, innanzitutto succede che per fare attività fisica noi dobbiamo mettere in moto il cuore e i polmoni, quindi migliora la funzione di questi due organi, migliora la circolazione e l'ossigenazione del sangue e quindi è evidente il beneficio positivo sulle malattie cardiovascolari. Poi l'attività fisica ha un'importante azione metabolica, perché i muscoli per contrarsi hanno bisogno di energia e quindi bruciano calorie sia sotto forma di grassi che di zuccheri. E quindi più i muscoli lavorano, più bruciano e più il metabolismo ne trae beneficio, e ciò aiuta a prevenire malattie metaboliche come l'obesità e il diabete. Poi tenere in movimento il nostro corpo aiuta a conservare il più a lungo possibile le capacità di svolgere in autonomia le attività della vita quotidiana, camminare, fare le scale, vestirsi, eccetera, e quindi ci rende più autosufficienti anche in età avanzata. Infine, io direi che una cosa importante da sottolineare è che l'attività fisica regolare è antinfiammatoria e noi oggi sappiamo che l'infiammazione è strettamente correlata a una serie di patologie croniche, tra cui c'è il diabete, c'è l'aterosclerosi, ma ci sono anche i tumori, come ho sentito che lei ha ricordato poco prima. Quindi approfittiamo dell'azione antinfiammatoria dell'attività fisica, parleremo anche tra poco di diabete, perché professore, lei ha scritto un libro molto interessante di cui vorrei parlare ai nostri ascoltatori, ma diamo la linea ai nostri ascoltatori. Assolutamente, guarda, sempre con il nostro solito atteggiamento di far passare avanti le signore, ma in realtà ci piace molto questa storia che vuole raccontarci Gabriella, di cui è essa stessa protagonista. Da Vicenza, benvenuta. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Niente, praticamente io faccio in media 70 chilometri, sì, alla settimana, abitando nelle colline, salgo scendo. La mia mattina, se non imprenditrice, non ho tempo. Sono anche una mamma, per cui ho ancora meno tempo. Per cui da 2 anni io ho una ricetta per tutte le donne che tolgono lo stress, che tolgono gli anni, che tolgono la grassa, che tolgono tutto. Uno è contento. Qual è la mia ricetta? Sveglia a 4:35 del mattino, inverno, estate, e tutto, un po' prestino, giorni, però tutti i giorni. E poi? 4:35 e poi si prende il cane e si va a fare 10 km di corsa sulle colline. Allora, ecco, questa è la ricetta di Gabriella. Alle 4:35 del mattino bisogna avere un cane, una sveglia, sentire la sveglia, avere il coraggio di uscire e via. Colline a disposizione, 10 chilometri, questa è la ricetta della nostra amica. Professor Pugliese, forse basta anche un po' meno, ma l'importante è muoversi. Basta anche un po' meno, basta anche in un altro orario, ma è una buona ricetta, certamente. Professore, tra i vantaggi dell'attività fisica che lei ha citato c'è quello legato alla prevenzione del diabete di tipo 2, lo sappiamo bene, è una malattia che sta aumentando, si parla di un'epidemia di diabete, le previsioni ci dicono che se il numero delle persone con diabete continuerà ad aumentare i servizi sanitari nazionali saranno in grande difficoltà, collasseranno, ma la buona notizia è che ciascuno di noi può evitare o ridurre questo rischio, no? Di incontrare il diabete con piccoli e graduali cambiamenti. Allora, se io le chiedessi di raccontare in tre mosse, la prevenzione nei confronti del diabete di tipo 2, da che cosa inizierebbe, professor Pugliese? Ma io direi innanzitutto una cosa che le racchiude tutte, che è seguire un corretto stile di vita. Se poi le vogliamo dettagliare, io direi che le mosse sono queste. Uno, visto che è il tema della nostra chiacchierata, l'attività fisica regolare, perché ha quei molteplici effetti benefici di cui abbiamo parlato, in particolare anche quelli sul metabolismo. Due, un'alimentazione bilanciata, perché noi dobbiamo dare al nostro organismo i nutrienti che gli servono nella quantità giusta. Tre, che è la conseguenza delle prime due mosse, mantenere un peso adeguato alla propria costituzione fisica, perché l'obesità può essere l'anticamera del diabete tipo 2 e nella maggior parte dei casi così è. Quattro, non fumare o smettere di fumare se già si fuma, perché è stato chiaramente dimostrato in una importante meta-analisi, cioè un insieme di più studi, che il fumo aumenta significativamente il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, quindi il fumo è nocivo anche da questo punto di vista, oltre a tutti gli altri che sono noti da tempo. A queste quattro mosse forse è opportuno aggiungere anche qualcosa su quali alimenti privilegiare per tornare all'alimentazione, e io direi che certamente i componenti della dieta mediterranea, quindi le fibre, cioè sì, cereali non raffinati, legumi, verdura, frutta, più carni bianche, soprattutto pesce che non carni rosse, e infine olio d'oliva e noci, come dimostrato di recente da uno studio spagnolo che ha avuto una grande eco nell'ambiente scientifico, che è il Predimed. Ecco, queste sono, diciamo, le indicazioni dietetiche. Poi c'è anche un discorso interessante, che è quello del caffè, che è venuto fuori da uno studio molto ampio condotto oltreoceano, che ha dimostrato che il consumo di caffè, soprattutto decaffeinato, è associato a un ridotto sviluppo di diabete tipo 2. Quindi troverete tutte queste indicazioni del professor Pugliese sul nostro sito in un piccolo box, quindi le mosse per prevenire il diabete di tipo 2, perché professore, se no ci sfugge il tempo e vorrei invece parlare, abbiamo un minuto, ma torneremo a parlare del libro che lei ha pubblicato con Stefano Balducci e Silvano Zanuso, che già nel titolo contiene un messaggio forte e chiaro, cioè che l'attività fisica è anche terapia, ma per assolvere a questo compito deve essere prescritta adeguatamente in dosi e tempi utili. Il libro si intitola Diabete di tipo 2 e attività fisica, dalle evidenze scientifiche all'applicazione pratica. Professore, lei dovrà tornare a raccontarci esattamente di che cosa parla il libro, il titolo è già chiaro, ma in 10 secondi può mandare un messaggio alle persone che hanno ricevuto diagnosi con diabete sull'attività allora, fisica? Il messaggio è questo: l'attività fisica fa parte, insieme all'alimentazione e eventualmente ai farmaci, dei presidi che il paziente diabetico ha a disposizione per curare la propria malattia. Ecco, quindi non ve lo dimenticate, che deve essere assolutamente inserita. Professore, io scappo, ma torneremo a parlare. Quanta e quale attività fisica per le persone con diabete, insieme al professor Pugliese, a breve a Radio 24. Grazie professore, buona giornata. Noi torniamo domani, anche se è festa noi ci saremo regolarmente, due belle soldatine qua al lavoro. Buona giornata a tutti.